Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con la rassegna stampa dei settimanali e dei mensili. Questa mattina nostra graditissima ospite Fernanda Roggero, responsabile di 24. Buongiorno Fernanda. Buongiorno a tutti. 24 è un mensile molto noto agli ascoltatori di Magazine 24, ne parliamo per ogni uscita praticamente che avviene. Sapete che 24 viene venduto insieme al Sole 24 Ore, è ancora in edicola il nuovo numero dedicato alla Cina. Se ci avete ascoltato sabato scorso sapete che ci sono diversi articoli che ruotano appunto attorno al tema della Cina. La settimana scorsa abbiamo parlato delle condizioni dei lavoratori, oggi approfittando anche un po' della presenza di Fernanda le chiederemo anche qualcosa sui numeri a venire. Vi segnalo un paio di cose, ad esempio interessante il fatto che ci siano degli interessi molto spiccati delle aziende farmaceutiche occidentali per la medicina cinese, una medicina antichissima, giusto Fernanda? Esatto, è come se Big Pharma, le multinazionali, avessero scoperto improvvisamente il valore della medicina tradizionale cinese e quindi sono corse a Pechino, Shanghai e stanno facendo anche degli accordi, delle partnership per studiare la valenza appunto per farmacologica di queste erbe e per codificarle secondo invece gli standard della farmacopea internazionale. Tra l'altro nell'articolo che si occupa di questo tema, che è affidato a Sylvie Coyot, che è tra l'altro la firma abituale per i temi scientifici di 24. Assolutamente, sì. Nell'articolo si spiega che parliamo di una tradizione medica vecchia di 5.000 anni, ma che in termini scientifici è ancora poco indagata, che ha queste potenzialità tali da indurre i colossi dell'industria farmaceutica e le stesse autorità nazionali cinesi a un'alleanza, per così individuare i principi attivi presenti nelle piante, riprodurli in ambienti controllati e mettere poi sul mercato così nuovi prodotti. Anche perché molti brevetti importanti delle grandi società multinazionali sono in scadenza, quindi a maggior ragione sono a caccia di principi attivi nuovi. Il compendio di materia medica è uno dei testi sacri a cui fanno riferimento non solo i medici cinesi, lo leggo dall'articolo di Sylvie Coyot naturalmente su 24. Il compendio di materia medica, dicevo, autore Li Shizhen, è un testo scritto nel 500, quindi è considerato recente per una disciplina che appunto ha 5.000 anni ed è considerato la pietra miliare da cui muovere per andare a indagare la medicina cinese. Vedo che naturalmente, come in tutte queste medicine antiche, c'è una grandissima attenzione specialmente al mondo vegetale. L'erboristeria è un po' quella che la fa da padrone. L'articolo si chiama L'erba del vicino. Che... Esatto, lì c'è un problema in effetti, perché ci sono state varie polemiche su alcune erbe, sulle coltivazioni di alcune erbe che essendo in terreni fortemente inquinati poi possono avere degli effetti negativi. Quindi a maggior ragione c'è la necessità di codificare bene le produzioni. Certo. C'è un altro articolo che vi voglio solo segnalare da 24, poi ripeto troverete il mensile 24 in edicola con il Sole 24 Ore venduto con il nostro quotidiano. Un altro articolo di cui vi faccio solo una citazione, forse non tutti sappiamo che la desertificazione, che è un problema molto avvertito di cui si parla molto per ad esempio la deforestazione o per l'Africa o per l'America Latina, è un problema molto molto forte anche in Cina. Questo viene confermato dal lavoro che viene presentato su 24, è un lavoro innanzitutto fotografico, quindi non stiamo a indagarlo più di tanto, poiché ne parliamo alla radio. Le immagini sono veramente efficaci e impressionanti. Il processo di desertificazione è drammatico, tra l'altro quest'anno con la siccità è ulteriormente peggiorato, ha messo in seria crisi a danno le produzioni di grano. E quindi è un tema importante insomma per i cinesi. Ecco, nell'articolo che accompagna le fotografie si spiega tra l'altro che l'emergenza desertificazione colpisce il 20% del territorio cinese, il che significa un'enormità, perché faccio anche fatica a immaginare, e così penso gli ascoltatori, a quanto vasta può essere quest'area. E interessa 400 milioni di persone, quindi più sostanzialmente che la popolazione europea mal contata. Sì, numeri, le grandezze sono tali che è da far girare la testa comunque. Qui c'è un problema poi economico, oltre che alimentare, perché quest'anno, come spiegavi tu, c'è stata una siccità, la peggiore degli ultimi 60 anni, riferisce sempre appunto la rivista di cui ti occupi, e questa siccità porta il rischio concreto che la Cina sia costretta a importare enormi quantità di grano per sfamare 1.300.000.000 di persone. Quindi queste importazioni massicce potrebbero far schizzare in alto i prezzi, tanto che il governo cinese ha già sbloccato $1 miliardo di sussidi economici per aiutare i contadini a investire in sistemi di irrigazione più moderni. Tutto questo su 24, che trovate in edicola. Vorrei con il Sole 24 Ore. Vorrei segnalare una cosa, perché in coda appunto a questo breve pezzo c'è il link con il sito del fotografo, dove ci sono dei video che sono veramente impressionanti, quindi invito i lettori ad andare anche sul video, perché è ma noi è lo molto possiamo, oltre a citare il fotografo, che credo sì, di non avere ancora ricordato, si chiama Sean Gallagher, il suo lavoro è visibile a questo indirizzo www.gallagher, naturalmente col GH il secondo, trattino alto foto, scritto ph.com, e poi se volete l'indirizzo completo dovete continuare con la barra, un cancelletto, un'altra barra in multimedia, ma forse fate prima anche a procurarvi 24, vedere queste foto, e magari vi verrà anche voglia di andare a vedere sul sito i lavori appunto fatti sulla desertificazione cinese e presentati in questo numero dal mensile del Sole 24 Ore. Fernanda, c'è un'ultima cosa che però vorrei chiederti. 24 ha questa abitudine di presentare in anticipo, di segnalare in anticipo quale sarà il tema del numero prossimo. Allora, è curioso notare che nel tuo editoriale sopra campeggia la parola per il numero in uscita il 15 aprile, design, ma col punto interrogativo. Chiaramente la prima domanda è: ma perché c'è il punto interrogativo? Perché non siete sicuri di occuparvi di design? Non credo. No, quello è, siamo sicuri di occuparcene, ma ce ne occupiamo in una maniera abbastanza bizzarra, devo dire, quest'anno. Lo facciamo tutti gli anni in occasione del Salone del Mobile. Quest'anno però l'intero numero è stato fatto con un guest editor, che è l'architetto e designer Fabio Novembre, e quindi tutto il numero è stato costruito insieme. È una bella avventura, devo dire, abbastanza complicata ma molto divertente, e questa idea di mettere il punto di domanda è venuto appunto chiacchierando con lui e decidendo come fare il numero, come svilupparlo, proprio perché ci siamo chiesti: si parla continuamente tanto di design, ma forse è un momento in cui c'è un punto di domanda: che cos'è il design oggi, che cosa rappresenta, cosa dovrebbe essere per essere più utile. E quindi il numero sarà particolare, perché sarà un numero molto visivo, ci saranno dei flussi di immagini collegati uno all'altro, e i testi sono domande inerenti in senso lato al mondo del design, che abbiamo chiesto a protagonisti creativi in tutto il mondo, per cui sarà un numero particolare. Una sorta di riflessione che poi accompagnerà, perché il numero sarà in edicola dal 15 aprile, coinciderà quindi con i giorni di apertura del Salone del Mobile, di cui già possiamo dire troveremo ampie tracce nei settimanali delle prossime uscite, quindi torneremo sicuramente a parlarne anche nelle prossime puntate di Magazine 24. Peraltro, per gli ascoltatori che ci seguono da Milano, dalle vicinanze di Milano, vi segnalo che il 12 di aprile, cioè in coincidenza con l'apertura del Salone del Mobile, e quindi con questa settimana dedicata al design, avremo proprio qui alla sede del Sole 24 Ore a Milano, in Viale Monterosa, un evento dedicato a Gio Ponti. Non so quanto possiamo dirne di più, Fernanda, è direttamente... Beh, qualcosina possiamo dire, perché ci sono varie cose che si legano. Ci sarà un omaggio a Gio Ponti, ci saranno in mostra 10 pezzi, insomma una quindicina di pezzi del celebre designer, E peraltro anche noi abbiamo un collegamento perché la nostra copertina del numero di aprile avrà uno stretto collegamento con un'opera di Gio Ponti. Non diciamo di più, però insomma. Però qualche cosa già possiamo mettere lì. Credo che la domanda poi sia questo utilizzo del design come forma d'arte, no? Sostanzialmente Gio Ponti forse è uno dei nomi che più sono familiari, più comprensibili per il grande pubblico, in cui lo studio di un oggetto magari di uso comune diventa poi un oggetto artistico e assume un valore superiore al suo valore commerciale. Questo sicuramente. Diciamo che negli ultimissimi anni forse questo ha portato a una deriva anche un po' pericolosa, perché si è pensato più all'arte forse che al design in senso stretto, e quindi all'utilizzo poi che le persone devono fare di questi oggetti. Immagino che questa sarà una delle riflessioni che troveremo sul numero di 24 che sarà in edicola dal 15 aprile. Allora io ringrazio Fernanda per questa cortesia di esserci venuta a trovare di grazie sabato a voi. Mattina. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo salutato Fernanda Roggero, responsabile di 24, mensile del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di design. Visto che però abbiamo ultimamente anche ascoltato di traffico, vorrei segnalarvi un bel lavoro di Stefano Cingolani su Panorama. Stefano Cingolani ha messo in fila le varie imposte che a diverso titolo, a diversissimo titolo verrebbe da dire, gravano sulla benzina, nonché nelle pagine appunto di questo lavoro di Cingolani presentato su Panorama, nonché una sorta di attualizzazione dei prezzi della benzina. Allora scopriamo, ad esempio, avendo convertito i valori dell'epoca in valori attuali, che nel 1960 di fatto il carburante costava 1,466 euro, 1,46 euro, quindi un valore diciamo paragonabile a quello di oggi. Costava molto meno nel 1965, quando questo valore, se lo attualizziamo, scende a 1,14 euro. Vi faccio grazia dei millesimi, anche se poi come dire, nel pieno possono non essere così insensibili. Il valore risale nel 1970 e ce lo ricordiamo, c'è la crisi petrolifera, ci sono le tensioni internazionali. Negli anni 70 e fino alla fine degli anni 70 questo valore continua a salire, tanto che nel 1980, quindi alla fine del decennio dello shock petrolifero, questo valore attualizzato è di 1,60 euro, per arrivare al livello attuale. Qui viene dato al 30 marzo 1,55 euro, 1,56 euro. Ci sono stati dei momenti però negli anni 90 e nel primo decennio del nuovo secolo in cui siamo riusciti a pagare qualcosa meno, 1,03 euro, 1,32 euro, 1,33 euro, insomma, questo per gli anni che vanno dal 95 al 2005. Questo non è ancora la cosa probabilmente più interessante del lavoro di Cingolani, perché si è anche preoccupato di ricordarci le varie addizionali, le varie sovraimposte che in qualche modo sono state via via collocate sul prezzo della benzina. Allora, come è forse noto, paghiamo ancora un millesimo di euro che è riferito alla guerra di Abissinia. Chiaramente queste voci oramai sono state stornate e vanno ad altre destinazioni. È stata una sovraimposta inserita nel 1935. Nel 1956 arrivarono altri 7 millesimi per la crisi di Suez, nel 63 per il Vajont, un altro aggravio nel 66 per l'alluvione di Firenze, e poi ci fu il terremoto del Belice. Insomma, via via per aiutare le popolazioni italiane colpite dal terremoto in Friuli, ad esempio in Irpinia, furono messe delle sovraimposte sulla benzina. Più recenti sono stati previsti anche l'aumento di un decimo, addirittura di 10 centesimi nel 2005, per favorire l'acquisto di autobus meno inquinanti. E l'ultimo arrivato, lo sappiamo, l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo sentito alla radio in queste settimane, una quota di 10-20 centesimi per ripristinare i finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo e per il credito d'imposta, il tax credit delle produzioni cinematografiche. Questo appunto l'elenco delle varie voci che gravano a diverso titolo sulla benzina, sul nostro pieno, e il titolo dell'articolo di Cingolani è: il serbatoio della nostra auto è diventato la mucca da spremere. Vi segnalo tra l'altro un passaggio, appunto quando Cingolani vuole ricordare che il vezzo di gravare sulla benzina è antico, dice che quando il Duce nel 1935 inaugurò l'andazzo, questo è il testuale di Cingolani su Panorama, imponendo 1,90 lire, una lira 90 centesimi, per finanziare la guerra d'Abissinia, Giovanni Agnelli, senatore, corse a Piazza Venezia e svuotò la sacca dell'ira in faccia a Benito Mussolini. Era uno dei pochi che se lo poteva permettere. L'auto, infatti, nonostante non fosse ancora un bene di massa, era già gravata, anche allora verrebbe da precisare, da elevate tasse di circolazione. Si può dire che gli italiani ancora oggi pagano per la voce Abissinia 40 milioni di euro l'anno, e questo poi appunto non è l'unico prelievo straordinario, come vi ho ricordato, perché via via sono stati previsti i vari aggravi destinati alle voci più diverse. Cambiamo magazine, passiamo da Panorama all'Espresso. Sull'Espresso un business che sta emergendo, business emergenti è infatti il titolo, l'argomento dell'articolo. Il titolo è: il telefonino riciclato. Ci sono dei telefonini riciclati, cioè è possibile risparmiare acquistando dei telefoni cellulari che sono ottenuti rigenerando i telefoni cellulari scartati dagli utenti. Scrive Alessandro Longo: sognate un iPhone, ma vi blocca l'idea di spendere 500-700 euro, si può trovare come nuovo con 200-300 euro di sconto. Avete nostalgia dei cellulari di un tempo? Bene, a 19 euro si può prendere un modello Nokia ormai introvabile nei negozi. È il fenomeno dei cellulari rigenerati che vengono usati appunto, poi rimessi a nuovo, rivenduti da aziende specializzate. E nel mondo è il momento del boom. C'è una società americana, si chiama Re Cellular, che ha fatturato 66 milioni di dollari nel 2010, nel 2011 prevede di aumentare questo valore del 50%. Nell'anno scorso, 2010, ha venduto o riciclato più di 5 milioni di cellulari. L'anno precedente, cioè nel 2009, questo valore, cioè questo numero di cellulari riciclati, era di 2,1, quindi è più che raddoppiato il numero dei cellulari. Anche in Italia, ci segnala appunto Longo, questo sta diventando un business. Prosegue nel suo articolo sull'Espresso: i cellulari rigenerati sono disponibili anche su normali negozi e-commerce, e ci sono delle società, alcune di queste vengono poi sentite da Longo, spiegano che hanno anche degli alti margini, perché i cellulari vengono normalmente acquistati sui 100 euro dagli utenti, ad esempio vengono riparati, si spende 15 euro, racconta uno dei titolari di queste società, e poi rivenduti diciamo a 200 euro, quindi il margine per chi fa questo tipo di lavoro risulta molto ampio. Questo su L'Espresso, il business emergente dei telefonini riciclati, un business che può consentire di risparmiare per noi utenti, può essere una opportunità interessante per chi invece appunto si è messo in questo settore. Ora, oggi, questa sera meglio, si giocherà il derby tra Milan e Inter, derby che è molto atteso perché potrebbe risultare decisivo per l'assegnazione del titolo. Naturalmente Radio 24 ha ottimi nomi e ottime voci che parlano di sport, che parlano di calcio, specialmente non voglio prendere il loro posto, vi voglio segnalare una bella opinione di Mario Sconcerti che compare su 7, il magazine del Corriere della Sera che abbiamo trovato in edicola da giovedì. Perché? Perché Sconcerti si interroga sulla visceralità di questo tipo di partite che effettivamente muovono molto le emozioni. Il titolo è: il derby è un rito d'amore. spiega, diventare fortemente interisti o milanisti è stato un modo, forse il più evidente, di voler bene a Milano. Sconcerti fa una sorta di microanalisi per verificare come sono cambiati i nostri modi di avvicinarci al tifo calcistico. Dice: c'è stato un tempo, fin verso la fine degli anni 60, in cui tifare per una squadra di calcio significava anche un modo di essere e di pensare. Quindi l'interista era bauscia, è un termine milanese che sta per sbruffone, e borghese. Il Milan invece rispondeva più a una dimensione operaia e da casciavit. Casciavit vorrebbe dire, con un altro termine appunto lombardo, persona un po', diciamo, meno, un po' più grossolana, via, senza voler essere offensivi per nessuno. Poi la televisione, prosegue Sconcerti, ha cambiato, ha mescolato tutto, e i ragazzi, cioè i tifosi di domani, hanno scelto per quello che vedevano. Le tifoserie si sono organizzate, hanno creato dei loro riti, quindi non si nasceva più tifosi di una squadra, non era un'eredità, è diventata sempre più una scelta. E non è nemmeno molto vero che siano poi i risultati a determinare il numero dei tifosi, perché risulta che l'Inter, per la maggior parte degli istituti di ricerca, abbia lo stesso numero di tifosi ora e anche quelli che aveva prima di cominciare appunto a vincere negli anni più recenti con Massimo Moratti. Il Milan non avrebbe perso popolo ora che vince meno. Questo perché, e qui è un po' il cuore della tesi di Sconcerti, perché il calcio è diventato davvero l'ultima ideologia, e allora non importa che sia vera per conquistare la gente, l'importante è che ci sia, che rappresenti un momento privato di altissima intensità. E questa radice sarebbe appunto nella Milano degli anni 50 e degli anni 60, quando le due squadre diventano competitive, ma Milano stessa è una città che traina lo sviluppo italiano, e allora riconoscersi in una delle due società che erano come due grandi aziende vincenti, spiega Sconcerti, era un modo di amare Milano. È stato un modo, scrive lui, forse il più evidente di amare Milano. Allora, con questa segnalazione da 7 di Mario Sconcerti si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina. Io ringrazio Valeria Bernardi. Se volete scriverci, potete farlo alla nostra casella di posta Magazine, scritto Magazine naturalmente, 24 @radio24.it. Noi ci risentiamo, se volete, domani mattina.